Mia cara amica, sollecito una raccomandazione. Sto col culo a terra e non so proprio come fare. C'ho al dipartimento, hanno bloccato anche il turnover. Praticamente sono un over 40 in libertà. E oh ea, aiutami Pomponia, tu che sei amica al premier. Aiutami Pomponia, maîtresse d'onestà. E oh ea, diglielo tu Pomponia, tu che sai ballare. Diglielo tu Pomponia, a te t'ascolterà. E oh ea, sai dopo il master ho fatto l'ennesima specializzazione. Più 39 dottorati di ricerca a Kathmandu. Ho scritto libri, pubblicato articoli sul giornale. Di referenze te ne posso dare a volontà. E oh ea, aiutami Pomponia, tu che sei amica al premier. Aiutami Pomponia, maîtresse d'onestà. E oh ea, diglielo tu Pomponia, tu che sai ballare. Diglielo tu Pomponia, a te t'ascolterà. E oh ea, e è quasi l'opposto della selezione naturale, in quel più scemo darwinianamente ce la fa. Tu che sei un genio mi potresti anche aiutare, fammi collaborare assieme a te al ministero. Co-co-co, aiutami Pomponia, tu che sei amica al premier. Aiutami Pomponia, maîtresse d'onestà. E oh ea, diglielo tu Pomponia, tu che sai ballare. Diglielo tu Pomponia, a te t'ascolterà. E oh ea.